e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, partiamo con una colonna sonora un po' pop in questa prima puntata di Cuore e Denari del 2017. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, non sono anche le 10.30, partiamo oggi con largo anticipo e naturalmente i temi non ci mancano. Intanto, voi come avete trascorso il Capodanno, questa ultima parte, l'ultima parte del 2016, un anno peraltro bisestile che è stato anche molto sorprendente dal punto di vista dell'andamento intanto dei mercati finanziari e dell'economia, ma sono tanti i temi che abbiamo trattato anche nel nostro contenitore dedicato al benessere della finanza personale, ma soprattutto del benessere appunto proprio della persona, come sapete bene. Intanto saluto anche Nicoletta Carbone che tornerà la settimana prossima, lascio anche a lei qualche giorno di riposo. Allora, perché abbiamo scelto questo inizio musicale pop per Cuore e Denari? Perché la canzone è interpretata da Mariah Carey, che naturalmente non si è fatta mancare anche la sua sortita, come ogni star che si rispetta di inizio anno. Non è iniziato il meglio il 2017 per lei, che era la protagonista del concerto di fine anno a Times Square a New York. Ha deciso di abbandonare il palco un quarto d'ora prima della mezzanotte. Bella, simpatica, davanti a decine di milioni di non solo tutte le persone che erano intervenute a seguire la tradizionale fine d'anno americana, ma anche davanti a decine di milioni di telespettatori in diretta sulla ABC e migliaia appunto di persone in piazza. Il motivo? Non aveva fatto le prove e la star si è trovata spiazzata, non sapeva che la musica sarebbe partita in playback, non le funzionava l'auricolare, non so bene cosa sia successo. Fatto sta che ha mollato, molto professionale, lì la manifestazione e se n'è andata. Allora, imprevisti sul palco a parte, fra le migliaia di persone accorse a Times Square, sicuramente molti poi avranno dormito in un appartamento trovato con Airbnb. Allora, perché vi diciamo questo? Perché iniziamo anche con un'altra notizia divertente questo 2017. Pensate, 55.000 persone solo a New York in questo Capodanno hanno trovato alloggio appunto in un appartamento prenotato su questo ormai incredibile circuito internazionale. 2 milioni in tutto il mondo hanno trovato la casa in cui festeggiare tramite questo sito, di cui abbiamo parlato tante volte anche noi qui a Cuore e Denari. Pensate che nel 2009 erano stati appena 1.400, e questo è uno dei tanti segnali di un mondo che sta cambiando, purtroppo qualche volta anche in modo un po' preoccupante, come testimoniano le prime notizie di questo nuovo anno con l'attentato di Istanbul, e sulle quali noi continueremo a tenervi aggiornati da Radio 24 e anche da Cuore e Denari. E allora abbiamo cominciato con un po' di curiosità. Voi con quale curiosità avete dato il via a questo nuovo anno, a questo 2017? Ce lo volete raccontare all'800 24 00 24? Noi ripartiamo tra i temi di Cuore e Denari, naturalmente, che vi hanno lasciato magari un segno l'anno scorso. Raccontateci quale tema vi ha colpito di più fra quelli che abbiamo affrontato e quali magari vorreste che in questo nuovo anno del nostro programma appunto affrontassimo, per arricchirvi e arricchirci tutti. Potete anche scriverci come sempre al 349-238-6666, riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi attraverso WhatsApp. Dopo tutto questo preambolo però direi che è il caso di partire con i nostri soliti temi. Oggi si parte con la rassegna stampa finanziaria. Partiamo con la seduta di borsa. Allora, intanto vi segnalo subito che oggi erano chiuse molte piazze asiatiche, è chiusa Londra, saranno chiuse anche le contrattazioni a Wall Street, quindi si continua ancora a festeggiare in molte piazze finanziarie l'avvio del 2017. Sono regolarmente aperte invece le contrattazioni a Parigi, a Francoforte e a Milano. Parigi sta guadagnando nella prima seduta del 2017 lo 0,30%, Francoforte meglio, più 0,87%, l'euro scende leggermente Ritorna sotto quota 1,05 sul dollaro, 1,0485 esattamente il rapporto di cambio in questo momento. Milano, miglior piazza d'Europa, più 1,33%, quindi parte molto bene la seduta di Piazza Affari. E tanto per cambiare, i temi su cui gli operatori puntano sono gli stessi di cui abbiamo parlato fino allo sfinimento per tutto il 2016, temi bancari. Allora, oggi la notizia più importante è che partono le contrattazioni di Banco BPM, la nuova realtà nata a seguito della fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Il nuovo istituto, appunto, oggi in questa nuova formula naturalmente ha il via alle contrattazioni. Il titolo addirittura ha avuto un rialzo fino a 6 punti percentuali, è stato anche sospeso dalle negoziazioni naturalmente per il vistoso rialzo, e questa sua prestazione porta con sé anche tutte le altre banche: la Popolare dell'Emilia Romagna più 4, UbiBanca più 3,45%. Per UbiBanca peraltro ci sono delle attese anche perché il gruppo vorrebbe acquistare le tre good bank nate dalla risoluzione appunto delle banche, come ricorderete, oltre un anno fa, con le banche problematiche Etruria, Cariferrara appunto e Banca Marche. Ci sono però degli ostacoli posti dalla Banca Centrale Europea, però il titolo oggi comunque va molto bene in attesa di capire se potrà completare e perfezionare queste acquisizioni. Va bene oggi anche Yoox Net-a-Porter più 3 punti, un sito di commercio online di abbigliamento molto famoso, e oggi probabilmente anche con l'avvio della stagione dei saldi beneficia anche di questa notizia. Peraltro un tema che approfondiremo questa mattina a Cuore e Denari. Bene anche Unicredit più 2,34, Buzzi Unicem più 2,27, Mediobanca più 2,26. Sono ancora sospese dalle negoziazioni appunto i titoli sospesi i titoli di Banca Monte dei Paschi. Non c'è in questo momento nessun titolo negativo a Piazza Affari. C'è STM che è sulla parità, poi ci sono Leonardo, Finmeccanica, che guadagna lo 0,3%, Enel più 0,48%, Unipol più 0,70%. Ma questa è la cronaca della giornata, almeno in questo momento. Io però vorrei cercare di capire che cosa ci dobbiamo aspettare da questo anno finanziario, da questo 2017 finanziario. Allora, abbiamo interpellato, che abbiamo rovinato l'inizio dell'anno con il collegamento radiofonico, Raffaele Zenti, socio fondatore, esperto di gestione dei rischi per Advice Only, piattaforma consulenza appunto indipendente. Zenti, buongiorno, buon anno intanto, e grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno a voi e auguri a tutti, ma in realtà non mi avete assolutamente rovinato la perché giornata, lei è operativo. Io stavo regolarmente lavorando, quindi ma sono qua. Le giornate migliori queste, quelle per lavorare, no? Nella tranquillità, lucidità mentale, naturalmente si possono pianificare anche tante cose interessanti. Voi che progetti avete per esempio per il vostro anno finanziario? Una domanda che non avevamo preventivato di farle, Zenti, però per esempio per una società come la vostra il 2017 si apre all'insegna di quali auspici? Si apre all'insegna di ottimi auspici, perché noi siamo una società che si occupa di fintech, quindi di quel a cavallo tra la finanza e la tecnologia, soprattutto quella digitale, quindi il web. E l'anno scorso già, ma speriamo ancora di più quest'anno, sono anni in cui questo settore dovrebbe galoppare, quindi abbiamo tanti progetti con clienti istituzionali, ecco, ci aspettiamo molto al 2017. E per i piccoli risparmiatori invece avrete un occhio di riguardo per avvicinarli anche a questo mondo, oppure ancora bene che stiano un po' lontani fino a quando non avranno una confidenza sufficiente con anche tutto quel mondo nuovo che è il robo advisory, no? Tutta quella consulenza. Noi abbiamo sempre un occhio di riguardo per i piccoli risparmiatori, cioè, siamo nati per questo, quindi cerchiamo sempre di informare tramite il blog, di fornire servizi in parte gratuiti, in parte a pagamento sul nostro sito, per cui uno si può controllare, monitorare un portafoglio, essere guidato. Abbiamo proprio un servizio che si chiama Tutor, quindi diciamo quella è per noi è la base, il trattar bene il piccolo risparmiatore è il motivo per cui siamo nati, siamo usciti da un'industria finanziaria che ci piaceva un po' meno rispetto a quando abbiamo iniziato a lavorare per questo progetto, quindi insomma, assolutamente sì. Tante novità anche per voi e molte iniziative che bollono in pentola. Andiamo invece ai temi finanziari, Zenti, perché anche quelli purtroppo bisogna guardarli. Allora, intanto non ho segnalato come apre anche l'anno dello spread e del differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco. Siamo a 172 punti circa, con il rendimento del BTP che è all'1,93%. Allora, la settimana parte bene per l'Europa. Naturalmente mancano all'appello, come dicevamo prima, anche molte piazze finanziarie ancora chiuse per festeggiare festività, le chiedo subito un commento su questo avvio di seduta, poi andremo ai temi singoli e soprattutto all'anno che sarà, perché qua si parla di un fattore Trump che continuerà a spingere ancora sicuramente Wall Street, ma anche le altre piazze finanziarie, perché il mercato americano condiziona sempre molto tutto il resto del mondo finanziario. E poi sull'Europa, che prevale, in cui prevale appunto la cautela per le insidie di un ricco calendario elettorale. Ma le chiedo intanto un commento su questo avvio di giornata, Zenti. Direi un avvio di ottimo auspicio. E tra l'altro aggiungo che anche a livello economico sono usciti degli indici, gli indici PMI, il PMI manifatturiero in vari paesi europei, tra cui l'Italia, tutti positivi, tranne quello della Grecia, che però comunque è in miglioramento. Per l'Italia è il quarto mese consecutivo di espansione di questo indicatore, quindi sono un dato che accompagna le borse, ci è di conforto. Attenzione però a non sopravvalutare l'inizio anno, ecco, serva direzione quello che è successo nel 2016, l'inizio anno era stato pessimo e poi tutto sommato, almeno per quanto riguarda i mercati finanziari, è stato complessivamente un anno buono. Le borse sono tutte, le principali borse sono andate bene, l'obbligazionario ha continuato un rally che dura da ormai più di da circa 30 anni. Quindi ecco, è di buon auspicio, ma attenzione a non sopravvalutare, questi inizi. Ovvio che non abbiamo una sfera di cristallo, e quello che si può fare inizio anno è cercare di pensare a che cosa può essere importante per i mercati e quindi per gli investimenti dei risparmiatori. Quindi cercare di andare a guardare fatti, numeri, senza come dire, lasciarsi trasportare troppo da anche da quello che dal rumore che arriva dal mondo, dall'economia, cercare di focalizzarsi diciamo su che poche i cose fatti, importanti. Esatto, i fatti di cronaca, i fatti contingenti li devono gestire appunto gli investitori professionali, che sono capaci di prendere anche le dovute distanze da sorprese e da fatti inattesi. Per quello che riguarda il piccolo risparmiatore, la raccomandazione che noi sempre facciamo è quella di condividere una strategia appunto con un bravo consulente, naturalmente porsi degli obiettivi finanziari, provare a raggiungere senza lasciarsi intimorire troppo, senza naturalmente neanche trascurarli, però dai fatti che qualche volta movimentano le sedute sui mercati finanziari, a volte anche in maniera un po' vistosa. Lei ricordava prima, Zenti, quello che è successo all'inizio del 2016, proprio con lo shock per i mercati finanziari che sono letteralmente crollati. Per me è stata indimenticabile la prima seduta del 2016, appunto esattamente un anno fa, quando c'è stato il crollo della borsa di Shanghai, era scattato addirittura il blocco automatico delle contrattazioni dopo appena 15 minuti dall'avvio della seduta. L'indice aveva subito un tonfo, lo ricostruisce anche in questi giorni il Sole 24 Ore, di circa il 7%, ma nel giro di pochi giorni addirittura la borsa crollò del 30%, spaventando molto tutti i risparmiatori. Poi hanno un po' recuperato. Per Piazza Affari però il bilancio del 2016 è ancora negativo, meno 10%, anche Madrid ha perso il 2%, le altre piazze finanziarie invece archiviano il 2016 con un bilancio con il segno più, particolarmente Londra, che naturalmente ha beneficiato per effetto della forte svalutazione della sterlina della Brexit. Da qui praticamente si riparte. Abbiamo avuto poi anche tanti altri fatti finanziari che hanno animato il 2016, il crollo del prezzo del petrolio che poi ha recuperato per effetto dell'accordo tra i paesi OPEC e anche non OPEC, Brexit dicevamo e Trump, e la variabile politica. Qua le lascio fare anche per quello che può qualche previsione, che sarà il grande tema per tutto il 2017 con gli appuntamenti elettorali che ci aspettano in Europa. Sì, le variabili da guardare sono senz'altro le variabili politiche, soprattutto nell'Eurozona. Nell'Eurozona diciamo la calma post referendum italiano non deve illudere particolarmente, perché la zona euro rimane l'area strutturalmente più fragile tra i paesi sviluppati. In particolare l'avvento dei partiti, chiamiamoli così, euroscettici può ridurre la cooperazione necessaria per mandare avanti il processo di riforma, il progetto europeo. E, diciamo che tra i rischi che si paventano all'orizzonte ci sono quelli appunto legati alle scadenze elettorali e in particolare in Francia, la potenziale vittoria della Le Pen minerebbe il progetto europeo. Quello è un rischio importante, no? Senza dimenticare che questo non è una variabile politica, però riguarda la zona euro. Bellissima l'apertura delle banche oggi in Piazza Affari, però ecco, l'Italia è un po' l'intera eurozona ha un sistema bancario abbastanza fragile, quindi i problemi. Io credo che si stia facendo un percorso molto lento, a piccoli passi si stiano sicuramente affrontando e in parte risolvendo i problemi del sistema bancario, però ecco, la strada è ancora lunga. Sempre a livello politico c'è il problema Brexit, quindi c'è lo spettro della cosiddetta hard Brexit. A marzo 2017 dovrebbe iniziare il processo di uscita con la rinegoziazione di un numero rilevante di trattati, e la battaglia potrebbe essere abbastanza dura. Infatti il nome hard Brexit, certo, dura. Non ci aspettiamo grandi sconti, e ci possono essere delle ripercussioni su mercati e, certo, su economia. Attenzione, questo non sto dicendo che sia una cosa che darà un connotato necessariamente negativo ai mercati. Noi siamo abbastanza ottimisti sul tutto sommato, vediamo una situazione abbastanza positiva per i mercati finanziari. Questi sono dei rischi che sono all'orizzonte. Diciamo, poi ci sono sempre quelli un po'... Assolutamente, esatto. Sono i cigni neri. Questi, esatto, sono quelli che possiamo in qualche modo scrivere su un foglio di carta e avere presente nello stendere un piano. Poi ci sono le cose totalmente inattese. Sempre a livello politico c'è il problema... già citato, legato a un po' all'avvento di Trump e al protezionismo, no? L'aumento in generale, comunque l'aumento di misure a protezione dei mercati interni non è nuovo, è in crescita, e certo però è che l'inasprimento dei rapporti tra Cina e Stati Uniti e anche tra zona euro e Gran Bretagna, con questo peso crescente dei partiti antiglobalizzazione, non credo che faccia bene al libero scambio, e questo di nuovo è un fatto, non è una questione politica, mi piace o non mi piace il libero scambio, però nei paesi OCSE oltre il 25% dell'occupazione dipende dalla domanda estera, quindi ecco, se diminuiscono gli scambi tra i paesi è possibile che ci siano delle ricadute sull'occupazione e quindi sui consumi e quindi magari e di conseguenza borse, riaggiustamenti, eccetera, sui mercati finanziari. Zenti, grazie per essere stato con noi. Peraltro non abbiamo citato, evidentemente perché un impatto non c'è stato, appunto il peso della recrudescenza anche del terrorismo, perché siamo partiti quest'anno con il terribile attentato di Istanbul, ma ancora una volta il mercato cinico a questi temi non guarda, non lo fa sempre, perché qualche volta ci guardo. Io mi ricordo anche i momenti delle primavere arabe in cui invece il mercato era molto disturbato da quei fatti, in questo caso tema diverso, ISIS e borsa che trascura questo tema. 30 secondi per un commento su questo, Zenti? È così, diciamo, questi anche qui sono dati, andando a guardare nel passato purtroppo abbiamo tantissimi attentati negli ultimi 5-10 anni e l'impatto sui mercati non c'è, è molto limitato, magari nei casi più gravi c'è 2 o 3 giorni, ma sono variabili, come dire, devastanti a livello umano, ma di scarso impatto sui mercati finanziari. Grazie Raffaele Zenti, Advice Only, per essere stato con noi. Buon proseguimento naturalmente di questa settimana un po' vacanziera per qualcuno, per noi invece ha ripreso completamente il lavoro. Grazie ancora, noi abbiamo il traffico adesso, poi torniamo insieme e faremo anche, come dire, una puntata di carattere commerciale, nel senso che andiamo a vedere un po' sotto che auspicio invece si apre la stagione dei saldi invernali. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci tornati dopo il traffico a Cuore e denari. Allora, sono Campania, Sicilia e Basilicata le prime regioni in cui partono i saldi. Partono proprio oggi, lunedì 2 gennaio, mentre le altre regioni daranno il via agli sconti il 5 gennaio. Quindi tutta la carrellata delle altre regioni parte nella seconda parte della settimana. Ogni famiglia dovrebbe destinare circa 250 euro all'acquisto di capi in saldo. Lo dicono le associazioni dei consumatori, ma naturalmente ovviamente come sempre non sono tutte d'accordo, è una spesa che risulterebbe in leggera crescita rispetto allo scorso anno, ma che le organizzazioni di categoria considerano ancora abbastanza modesta, anche perché i saldi arrivano come sempre dopo le festività natalizie ed è una circostanza che limita ulteriormente la corsa agli acquisti, almeno nel periodo iniziale. Gli acquisti più ingenti si concentreranno infatti nel periodo finale, quando gli sconti potranno arrivare addirittura al 50-60%. E però c'è chi lamenta che i piccoli esercizi continuano a soffrire gli effetti della crisi. Cosa ci aspettiamo quest'anno? Ce lo racconta Carlo Massoletti, vicepresidente di Federazione Moda Italia. Buongiorno Massoletti e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per la vostra consueta disponibilità di inizio anno, perché naturalmente noi in questa parte dell'anno vi chiamiamo sempre, vi interpelliamo. Allora, dicevamo, i consumatori dicono circa 250 euro a famiglia, i commercianti invece che previsioni fanno sulla spesa che la famiglia italiana sosterrà approfittando di questi prezzi ribassati? Beh, noi abbiamo fatto delle stime che complessivamente ricomprendono una cifra importante, che è di 5,3 miliardi di euro è il valore dei saldi invernali. Poi declinandolo sulla famiglia, noi stimiamo all'incirca 344 euro, che poi rideclinato su ogni persona stimiamo la cifra intorno ai 147 euro. Ma al di là delle cifre, che poi al di là delle stime, insomma, che lasciano sempre il tempo che trovano, la nostra previsione è comunque di un saldo non brillantissimo, sugli stessi livelli dell'anno scorso. Non credo che si potrà recuperare quanto perso negli ultimi mesi dell'inverno, e pertanto direi luci e ombre, ecco, perché poi dopo naturalmente ogni area geografica del nostro paese risponderà in maniera diversa. Però riallacciandomi un po' al ragionamento che facevate anche con l'interlocutore precedente nel flash in cui si parlava degli attentati di Istanbul, devo dire che tutte queste cose poi dal punto di vista del consumo sicuramente hanno un effetto negativo, perché la gente resta comunque, diciamo, abbastanza impressionata da queste cose. Tra l'altro, quello che lei diceva, Massoletti, fa il paio con un'altra considerazione sempre delle associazioni dei consumatori. Ce n'è qualcuna sempre particolarmente polemica su questo aspetto, ma in realtà è una polemica che si trascina da un sacco di anni e che non trova ancora una definizione ultimativa. Allora, la questione è che se le famiglie italiane sono ancora in difficoltà e magari rimandano gli acquisti che potrebbero fare a dicembre, a gennaio, quando ci saranno gli sconti, per poter naturalmente lo stesso accontentare la clientela, molti commercianti, non alla luce del sole, fanno partire degli sconti prima dell'avvio ufficiale appunto della stagione dei saldi. Gli esercenti, dice Codacons, applicano già da settimane sconti medi dal 20 al 40%, proponendoli direttamente ai consumatori in fase di acquisto, accettando le richieste di sconto da parte dei cittadini o in certi casi facendo delle promozioni. Ne è arrivato qualcuno di messaggio anche a me, perché poi mi faccio le tessere in qualunque negozio appunto per la partenza appunto di saldi un po' anticipata rispetto a queste date che abbiamo dato. Allora, ancora una volta ci ritroviamo a commentare questa faccenda della liberalizzazione dei saldi, Massoletti, ma insomma si troverà prima o poi un accordo tra tutti, oppure ancora voi continuerete un po' a dire che non è il caso di dare il via formale alla stagione dei saldi tutto l'anno e che quindi occorre mantenere salda questa politica della disciplina anche per date? Guardi, il fatto che le imprese commerciali comincino prima testimonia la difficoltà del mercato e che la contrazione dei consumi non si è ancora superata. E la contrazione dei consumi che non riguarda solamente le famiglie che hanno difficoltà, ma riguarda purtroppo anche le famiglie che difficoltà ne hanno di meno e che così, visto il clima, pensano di tenere i soldi in tasca e di rinviare i propri consumi, i propri acquisti. Per quanto riguarda il tema delle date dei saldi, devo dire che noi siamo assolutamente certi che la data fissa di partenza per tutto il paese sia la soluzione migliore, anche perché liberalizzare completamente i saldi da un lato metterebbe sicuramente in difficoltà le piccole imprese che non hanno modo di creare economie di scala, ma sono le piccole imprese commerciali, ma soprattutto poi si presterebbe a vere e proprie, come dire, trappole per i consumatori, che non saprebbero più riconoscere le aziende che magari vendendo prodotti di qualità mediocre e caricando molto sui prezzi poi possono permettersi degli sconti rispetto a quelle che invece seguono un criterio di mercato più trasparente, più vicino, diciamo, alle esigenze dei consumatori. Pertanto la data fissa dei saldi noi riteniamo sia davvero un caposaldo utile sia per le imprese che per i consumatori. Allora, intanto io invito gli ascoltatori, hanno ancora qualche minuto di tempo per farlo, a scriverci o a chiamarci all'800 24 00 24, a scriverci al 349 238 6666. Raccontateci se avete fissato un budget di spesa per approfittare dei saldi che stanno partendo, avete messo l'occhio su quel capo di abbigliamento magari in dicembre però ritenevate che non fosse proprio nel vostro budget e quindi così magari vi siete messi d'accordo anche con il negoziante per tenervelo da parte per approfittare degli sconti, suggerimenti che non dovremmo dare, ma sappiamo benissimo che poi magari nella, così, nella pratica quotidiana, nella quotidianità, magari lo si fa, soprattutto se si ha un rapporto di fiducia di lunga data con magari un commerciante. Quindi, oltre al budget, che cosa comprerete? Approfitterete appunto dei saldi oppure siete di quelli che pensano mi compro magari una cosa bella, una o due cose l'anno e quindi durante i saldi evito di così buttarmi tra la folla, che è veramente poi l'altro secondo problema di questo momento, perché io non immagino cosa succederà a Milano come sempre nei prossimi giorni. Andiamo ai consigli per gli acquisti, Massoletti. Come al solito noi a Cuore Denari abbiamo questo carattere molto pratico per dare anche qualche consiglio appunto pratico ai nostri ascoltatori per fare un buon acquisto naturalmente, ma essere anche pienamente tutelati come consumatori. Intanto, per esempio, faccio un acquisto e mi accorgo dopo due giorni, anche se l'ho comprato fortemente scontato appunto un capo d'abbigliamento che non mi piace, cambio idea, magari era un regalo e la persona a cui è destinato non gli sta bene, non è di suo gusto, appunto ho tutte le posso cambiarlo naturalmente esattamente come se lo comprassi in stagione piena, oppure i saldi ridimensionano un po' anche le tutele per i consumatori? No, beh, guardi, per la verità non si tratta di una tutela, ma si tratta poi di una libera contrattazione tra il negoziante e il consumatore, nel senso che non c'è un obbligo di legge rispetto a un capo, diciamo così, su cui non si riscontra un difetto. Lì entreremo in un'altra questione, sul capo in cui non si riscontra un difetto di un obbligo di legge perché il negoziante lo debba assolutamente cambiare. Ritengo comunque che in un'ottica di servizio moderno, attento alle esigenze dei consumatori, la grandissima maggioranza e soprattutto dei piccoli negozi acceda volentieri, diciamo, a cambiare un prodotto, a sostituirlo, a farlo magari riprovare, a verificare insieme le misure, eccetera. Io credo che il trucco stia un po' in quello che lei ha detto in premessa, cioè soprattutto andare nel negozio dove c'è già un riferimento personale significativo, dove magari ci si conosce e in quella situazione poi le cose vengono anche facilitate e i problemi risolti facilmente. Allora, intanto c'è un ascoltatore che ci scrive: il mio budget sono 130 euro che mi hanno regalato al mio compleanno come buono d'acquisto e quindi comunque non è proprio male come cifra. Ah, devo andare già? Ah, ecco, no, mi stava mettendo Paolo appunto la colonna sonora della nostra che ci porta generalmente verso la chiusura del blocco. In realtà ho ancora un minuto da spendere con Massoletti. Senta, un'altra raccomandazione che fanno generalmente le associazioni dei consumatori è quella di tenere sott'occhio i super sconti. Se un esercizio commerciale pratica sconti superiori al 50%, spesso nasconde merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi. Che cosa ci dice su questo? Ma io su questo concordo abbastanza, soprattutto con la premessa, cioè stiamo attenti ai super sconti, poi dopo non so che cosa nascondono, magari nascondono forniture fatte all'ultimo momento al negozio, che il negozio vuole esitare a tutti i costi, però ecco, ritengo che lo sconto massimo che sia diciamo così corretto proposto da un negozio sia intorno al 50%. Quando si supera questa cifra cominciamo anche noi, diciamo così, a immaginare che sotto ci sia qualcosa che non funziona. Resta il fatto che poi nelle ultimissime settimane di saldi tanti negozi, pur di liberarsi, diciamo così, dell'invenduto, fanno degli sconti veramente stratosferici. Però è un fenomeno destinato magari a durare qualche giorno nell'ultima settimana di saldi. Grazie Massoletti, in bocca al lupo per tutto, naturalmente per tutte le vostre attività, soprattutto per quelle dei piccoli esercizi commerciali. Ci risentiamo presto, intanto noi andiamo in pausa, adesso c'è il giornale radio, dopo torniamo con le battaglie del 2017 delle associazioni dei consumatori. e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, avete sentito poco fa, vi abbiamo preannunciato nel corso del giornale radio il tema che avremo approfondito in questa parte di Cuore e Denari. Allora, risparmi andati in fumo per la troppa fiducia qualche volta riposta in banca, o magari perché abbiamo fatto delle scelte un po' troppo azzardate, non coerenti con il nostro profilo di risparmiatori, ma anche bollette, mutui e fisco, diritti negati o ancora non riconosciuti da noi in quanto consumatori, che non sempre siamo adeguatamente informati sulle questioni che ci riguardano. E poi sicurezza alimentare, telefonia, trasporti, insomma abbiamo una nutrita schiera di temi quando proviamo a pensare alle battaglie che ogni giorno tante organizzazioni portano avanti per noi su tutto il territorio nazionale. Parliamo delle associazioni dei consumatori, molte sono molto combattive, alcune provano a guadagnarsi tantissima visibilità sui media, però insomma poi c'è un dietro le quinte che è estremamente attivo, fatto di schiere anche di legali che lavorano qualche volta anche volontariamente per le associazioni dei consumatori. Il tema è capire cosa faranno per noi nel 2017, quali sfide ci attendono per l'anno che si è appena aperto. Ne abbiamo interpellata una che è attiva su tantissimi fronti, e allora saluto e ringrazio per essere ancora una volta con noi, perché devo dire che ormai questo è diventato un rito al quale non vogliamo più rinunciare, quello di partire, di far partire l'anno con Mara Colla, presidente della Conf Consumatori. Presidente, buongiorno e buon inizio d'anno. Buongiorno, grazie, qua. Auguri. Altrettanto, naturalmente. Allora, da che cosa cominciamo? Sarà ancora, presidente Colla, il risparmio, il tema bancario, il grande tema di presidio delle associazioni dei consumatori? Perché voi, peraltro, nel 2016 avete in prima linea appunto operato a tutela dei consumatori anche proprio su questo versante. Nello specifico, su quali fronti vi siete trovati ad operare con maggiore attenzione? So che sicuramente siete stati molto attenti ai casi Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E peraltro stavo anche guardando prima il vostro sito e si scopre che i vostri legali stanno continuando a vincere anche delle cause su una questione vecchissima, quella dei bond argentini. Ma appunto, mantenendoci come primo tema alla questione del risparmio, dicevo, sarà ancora il grande tema di presidio delle associazioni dei consumatori quest'anno? Senza dubbio sì. Il tema del risparmio è uno di quelli che più ci impegneranno anche nel 2017, perché sono troppe le vicende andate malamente a danno dei consumatori, delle famiglie, ma anche del paese. Si parla di risparmi in fumo che sono stati sottratti evidentemente a un uso migliore, no? A vantaggio di tutta la popolazione italiana. Anche quest'anno abbiamo casi vecchi, come lei stessa ha citato prima, Veneto Banca, Monte Paschi Siena, Seat Pagine Gialle, 23 milioni di euro hanno perso, ma poi ci sono anche nuove frontiere, per esempio quella dei fondi immobiliari chiusi, che sono fondi immobiliari, lo dice il termine stesso, no? Composti da quote che i risparmiatori comprano di immobili. Sono stati presentati come fondi sicuri, come risparmio sicuro. Qual è mai che il cittadino che pensa che non è sicuro il risparmio, esatto, del mattone, no? E così sono stati venduti anche a persone giovani, ma soprattutto a persone non giovani, quindi ancora meno preparate, no? Di quelle che teoricamente, di quello che dovrebbe essere uno giovane. Ecco, anche questi sono se arriva a Redder Actionem, abbiamo già esaminato alcuni di questi e ce ne sono anche molti altri. Ecco, questo per confermare purtroppo che anche nel 2017 il tema del risparmio, inteso come proprio tutela, l'associazione, la mia associazione che ha fatto da oltre 10 anni proprio attività quotidiana di assistenza e di tutela dei cittadini e delle famiglie, non può smettere neppure quest'anno per dedicarsi ad altro. Non può abbassare la guardia. Peraltro, no, guardi, presidente, esatto, Colla, la ringrazio per la segnalazione sui fondi immobiliari che mi sono già scritta, messa da parte, perché direi che a questo punto, se lei ce lo segnala con questa enfasi, direi che dovremmo dedicare appunto una puntata specifica. Peraltro ho notato che anche sabato scorso scorso il Sole 24 su Plus 24 ha dedicato un nuovo approfondimento su questo argomento, quindi chiusa parentesi, grazie. Sì, no, anzi questo è doveroso. No, vede, quindi il tema del risparmio, diciamo che però dopo 13 anni di battaglie in cui per la verità ne abbiamo anche vinte tante e ne hanno perse tante le banche e anche le autorità di controllo, intendo Consob e Banca d'Italia. Ecco, la Confconsumatori ha deciso di non pensare solo a valle, no? Di risalire un po' più a monte, perché è vero che anche noi cittadini non ne sappiamo abbastanza, troppo spesso ci affidiamo ad altri e senza nessuna consapevolezza. Credo che la nostra responsabilità di cittadini, di responsabili proprio di un'associazione anche di cittadini, abbia il dovere, e quindi ha deciso, riconoscendosi questo dovere improprio, di fare qualcosa anche a latere dell'attività giudiziaria, cioè promuovere campagne di educazione all'uso del denaro. Si dice educazione finanziaria in termini, ma vorremmo stare coi piedi molto per terra, diciamo educazione all'uso del denaro destinata più che altro ai giovani adulti, in modo da aiutarli a scegliere. Ecco, capire, giovani adulti, lei diceva, che questa iniziativa vi vedrà impegnati soprattutto in quella fascia di popolazione compresa fra i 18 e i 35 anni, quelli che fanno fatica ad entrare nel mercato del lavoro, che vanno oggi come oggi educati al lavoro autonomo, dando loro gli strumenti necessari, e quelli che vanno, tra virgolette, poi questo tema mi piace poco, cioè utilizzare questo termine, educati, ma purtroppo è così, anche al costruirsi la pensione, perché per loro quella pubblica sarà magra, magrissima. Perché avete scelto questa fascia sociale, Colla, per la vostra battaglia di educazione all'orientamento, di orientamento all'uso del denaro più che d'educazione? Ecco. Esatto, questo mi pare che sia l'esigenza che nasce anche da quello che abbiamo fatto, cioè che cosa ci dicono le sentenze che abbiamo ottenuto favorevoli ai consumatori, che noi non sappiamo abbastanza, noi non abbiamo abbastanza cognizione di come fare, ma non solo quando andiamo a chiedere un mutuo in ipotesi, per esempio non dovremmo mai chiedere un mutuo a una banca che in cambio ci dice sì però tu compra le mie azioni, ecco, così io ti do il mutuo. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte? Sì. Quindi le cose minime da sapere, dobbiamo aiutare le persone a saperle. Chi deve dirgliele se no? Perché un conto è i bambini che vanno a scuola e hanno la scuola giustamente che fa da agente, no, educativo, ma alle persone adulte, a chi affronta oggi un lavoro per lo più a tempo determinato o precario o improprio, chi gliele insegna queste cose? Noi ci siamo posti questo problema e ci siamo detti, ma è anche una nuova frontiera, esatto, dell'attività delle associazioni dei consumatori, che sul lavoro fino ad ora non si sono particolarmente impegnate ed esposte, naturalmente perché ci sono già tanti campi su cui dare battaglie, il lavoro demandato magari al sindacato, eccetera, però anche voi invece ritenete... è essenziale, anche il sindacato fa un lavoro più nella fabbrica, più come dire, di tutela delle condizioni del lavoro, appunto, ma non fa quello della formazione della persona, non so se è nelle sue corde, ma certamente è nelle nostre, di mettere in condizione le persone di sapere come fare un budget, da quello familiare che riguarda il ragazzo che esce di casa, che anche semplicemente che va a studiare in una università diversa da quella di casa sua, no? Ha il problema di far bastare le risorse, esatto, della famiglia. Quindi magari la mamma così, insomma, esatto, lo prepara a cucinare, a rifare il letto, ma magari ecco sulla gestione poi del bilancio. Non a riempire il frigorifero, non a non buttare le cose, non a fare questo. Quindi ecco, queste cose minime sembrano banali, ma non le sono affatto. Ma poi dalle indagini che abbiamo fatto anche verso i giovani sotto i 40 anni, se uno dicesse ma il mio lavoro non posso pensare che duri a lungo perché non ci sono le condizioni, se volessi mettermi in proprio facendo la stessa cosa ma facendomi finanziare, no, pagare da chi ha bisogno della mia expertise per 6 mesi in ipotesi, quindi cercarsi un lavoro, non sanno minimamente come mettersi in grado di ottenere un affidamento da una banca, perché ci vuole un budget, bisogna saperlo costruire, quindi queste cose non sono neanche anche spesso rinvenibili all'interno delle associazioni dei piccoli artigiani, dei professionisti, quindi sono in balia di tutti. Ecco perché ci siamo posti il problema, posto che anche i professionisti sono vittime dei risparmi traditi, non è che c'è solo il pensionato. Insomma, abbiamo fatto un'indagine, abbiamo detto, ma a che cosa ci porta questo lavoro? Di fare la tutela e basta. Noi non siamo patronati, siamo un'associazione di cittadini che si è posta questo, che accetta questo scopo statutario, che è quello di elevare l'informazione, di rendere autonome le persone. Meglio sbagliare da soli che perché ci si è affidati un altro. Certo. Almeno avrai imparato qualcosa. Quindi questo ci ha portato ad assumere questo ruolo che, se vuole, è anche di rappresentanza, no? Siamo anche un'associazione di rappresentanza, non è che tappiamo solo i buchi. Anche perché poi molto spesso il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma, vi ascolta, sì. Si stilano proprio delle priorità, delle battaglie da fare, anche naturalmente dopo aver ascoltato quelle che sono le esperienze dirette delle organizzazioni dei consumatori. Sì, infatti sì. Si fa anche ciclicamente così. Sì. Allora, l'altra. No, allora volevo completare un po' il tema dell'orientamento all'uso del denaro, le battaglie del 2017, con un occhio soprattutto alla gestione del denaro e il mondo del lavoro e il supporto ai giovani, come dicevamo, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, una nuova frontiera anche per il consumerismo, che però ci sembra abbia un taglio estremamente concreto e pratico. Volevo solo segnalare, dottoressa Colla, che a proposito di educazione finanziaria, che è stato l'altro grande argomento del 2016, perché ancora una volta abbiamo parlato di risparmiatori in difficoltà con le obbligazioni subordinate e quant'altro, siccome diciamo sempre che in Italia non si fa nulla e che bisognerebbe invece impegnarsi un po' di più per portare questi temi nella scuola eccetera, che in realtà di iniziative ce ne sono moltissime, noi le abbiamo raccontate, e proprio per farlo capire, per trasmettere questo messaggio a tutta la collettività, volevo segnalare che il 18 gennaio a Roma la Banca d'Italia presenterà proprio il primo censimento nazionale di tutte le iniziative che ci sono sul territorio, tanto per cominciare a far partire anche un'attività di coordinamento di tutto quello che c'è e magari poi far trovare pronto tutto questo tavolo di raccordo quando sarà pronto anche il provvedimento sull'educazione finanziaria in Italia, che è l'altra grande battaglia politica che si sta cercando di definire e completare. C'è il disegno di legge appunto dell'onorevole Maurizio Bernardo, che è stato anche molto spesso qui a Cuore e Denari, per cui speriamo che il 2017 possa essere l'anno buono per completare questo discorso e strutturare tutta questa materia. Volevo andare, Mara Colla, all'altra vostra grande battaglia, che ha sempre molto a che fare purtroppo anche con il denaro, perché è un tema che incide moltissimo in maniera molto pesante nel budget di molte famiglie colpite da questo grande problema. È una battaglia che voi portate avanti con grande vigore da almeno 3 o 4 anni, e a noi fa piacere segnalarla perché è un tema molto Cuore e Denari. Parliamo di malati di Alzheimer e delle loro famiglie, spesso lasciate sole con tutto il carico di fatica che devono sopportare, perché non è facile prendersi cura di queste persone in modo adeguato, soprattutto se rimangono appunto all'interno del nucleo familiare. Perché ci ritorniamo quest'anno? Perché le regioni non fanno quello che dovrebbero fare. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite da tempo ha sancito il principio che il ricovero nelle case di cura convenzionate, nelle residenze sanitarie assistenziali, è gratuito. La retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e invece ancora le regioni continuano a chiedere dei contributi appunto alle famiglie. Allora, Mara Colla, ci fa il punto della situazione su questa battaglia anche di civiltà importantissima, perché continuate a dare battaglia su questo e perché le regioni hanno così piena libertà nel non adeguarsi ai principi sanciti appunto dalla Cassazione? Le regioni si adeguano solo se vengono obbligate da un tribunale. Capiamo tutti benissimo che in materia di assistenza ai malati non può certo essere il tribunale la piazza, l'agorà in cui tutte le opinioni vengono messe a confronto, e da lì scaturisce una iniziativa nuova, anche politica, che risolve i problemi che tutti denunciamo. Quindi noi abbiamo utilizzato la magistratura per singoli casi in varie realtà territoriali, l'abbiamo dovuto fare proprio per far vedere e toccare con mano alle istituzioni soprattutto, e quindi a chi ci governa anche, come la sentenza della Corte di Cassazione sia di fatto una legge, chiamiamola così impropriamente, a cui si adeguano anche tutti gli altri tribunali. Allora, se è così, è necessario a questo punto prendere il toro per le corna, mettere attorno a un tavolo il ministro della Sanità, l'ANCI, diciamo l'associazione dei comuni, le regioni, no, nel loro complesso, o la rappresentanza loro, perché determinino la soluzione da adottare, cioè esca da quel tavolo che è sicuramente politico istituzionale la soluzione. Noi non possiamo andare a fare causa alla RSA con quello che comporta in termini emotivi, di etica personale, certo, no, di una famiglia che ha firmato. Adesso chiudiamo un attimo se l'ha firmata volontariamente o se è stato costretto a firmare l'accordo che avrebbe pagato, perché solo a quella condizione avrebbero ricoverato il suo familiare, chiusa parentesi. Comunque, se per evitare tutto questo alle famiglie che mettono di mezzo il loro malato, dobbiamo fare come consumatori questa iniziativa, noi non abbiamo posto tempo in mezzo. Prima ci siamo voluti rendere chiaro a tutti che la Corte di Cassazione era non solo, come dico, una legge per tutti ormai, era prassi comune conoscere il contenuto e applicarlo, ma che anche i singoli tribunali vi si adeguavano. Questo per significare che da qui bisogna uscire. È un certo problema di civiltà. Senta Colla, quanto costa ad una famiglia in media un impegno di questo tipo, cioè chiedere aiuto ad una residenza sanitaria appunto assistenziale? Non è che parliamo di 100 euro al mese, che no, potrebbero... Parliamo di 1000 euro, 1500 euro al mese, dipende. Appunto, siccome le RSA sono di vario genere, parliamo sempre di residenze convenzionate ovviamente, ma sono somme per cui non basta la pensione dell'anziano, infatti, quando anche fosse rilevante, insomma abbastanza dignitosa. Tra l'altro il contributo della regione dovrebbe essere garantito a quei nuclei familiari che chiedono assistenza, sì, per anziani ultra 65 anni, sì, c'è anche questo distinguo, giusto? Non c'è dubbio, ci sono, io adesso ho semplificato nel dire al time, perché tutti, però ci sono anche trattamenti analoghi a quelli dei malati di Alzheimer per altre categorie di pazienti, e lei ne ha appunto indicata una. Quindi insomma il tema è anche in questo caso costituire un tavolo istituzionale che per una volta tanto obblighi in qualche maniera tutte le regioni ad ottemperare a quanto sancito dalla Corte di Cassazione, perché non si può chiedere che ad ogni tribunale praticamente, come lei diceva, di intervenire, che poi naturalmente un tribunale agisce dopo una causa intentata magari da una famiglia che ha dovuto sostenere ulteriori spese legali eccetera, e quindi poi si va in ordine sparso e non si trova una soluzione invece univoca, che è quella che è necessaria. Peraltro in tutto questo discorso, Mara Colla, il tema interessante è le regioni non si adeguano, ce n'è però una particolarmente virtuosa che invece non fa nessuna, non esprime nessun disappunto rispetto a questo principio, la Sicilia. Paga quello che deve. Paga, sì. La Sicilia si è adeguata a questa sentenza, anche spinta, c'è stata una iniziativa giudiziaria anche in quel caso, però non ha, diciamo, non ha fatto orecchie da mercante, insomma, una volta citata, insomma, alla fine si è adeguata. Certo, in mancanza di una soluzione legislativa, quindi politica, l'ente pubblico ha bisogno di una sentenza per uniformarsi. Quindi è chiaro che ogni regione, ogni comune ha bisogno di perdere, no? È per questo che ci chiedono anche la causa, poi pensando che nessuno ce la farà o pochi ce la faranno, quindi che andiamo avanti così altri 100 anni, no? Perché insomma diventa difficile fare la causa. Ma occorre, ecco perché diciamo non giochiamo con la pelle degli ammalati, no, esatto. Ci troviamo attorno a un tavolo e ci assumiamo ognuno la sua responsabilità. Ecco, anche quindi... Consumatori assume tutta la sua, no? e così chiede agli altri. Ecco, infatti, di fare. Ne riparleremo di nuovo, magari con Nicoletta Carbone e Cuore Denari, per far capire bene alle persone che non hanno confidenza, per loro fortuna, con questo problema, cosa significa farsi carico dell'assistenza di un malato di Alzheimer. E questo per far capire quanto è importante anche che le istituzioni facciano la loro parte nell'aiutare le famiglie. Stiamo andando verso la chiusura, ma Racolla, sì, peraltro non sono riuscita a sentire gli ascoltatori all'800 24 00 24. Potevamo anche provare a capire quali sono quelle battaglie che loro suggerirebbero alle associazioni, sì, dei consumatori, magari, che magari sono state trascurate nel 2016, però avete ancora tempo naturalmente per intervenire. C'è qualcuno che dice: le associazioni dei consumatori fanno solo battaglie da salotto. Se le sembra, lo dico a questo ascoltatore che ci ha chiamato, che prendersi cura, assistere una famiglia con un malato di Alzheimer appunto in casa, le sembra una battaglia da salotto? Mi pare un commento proprio veramente fuori luogo. Questo lo dico perché qualche volta qualcuno parla un po' in libertà, e questo mi dispiace, perché sicuramente c'è qualche associazione dei consumatori che urla magari e fa poco. Ce ne sono tante invece un po' meno urlatrici, ma molto concrete e operative anche nelle battaglie da portare avanti. L'ultimo minuto, Maracolla, so che un altro tema, prego, che voi proverete a portare avanti come battaglia è quello della previdenza complementare, quindi il rapporto con le compagnie di assicurazione. Ci anticipa qualcosa, poi ci torneremo magari con una puntata. Ma allora, alla base della nostra attività del 2017 c'è recuperare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, perché altrimenti questo paese non va avanti e le istituzioni devono fare un passo avanti verso i cittadini. Anche in questo caso, no, perché ci è venuto di parlare di assicurazioni, di previdenza e anche di polizze assicurative e assistenziali? Ma perché i due temi che abbiamo trattato, il risparmio prima e l'Alzheimer dopo, ci hanno fatto sbattere la fronte anche contro le polizze assicurative che vengono fatte nell'un caso, no, per garantirsi una previdenza, una pensioncina, visto che non avremo, come diceva giustamente lei, quella statale, i giovani non l'avranno. La seconda è quando io cerco di farmi aiutare quando sono giovane a pagare una polizza sanitaria, perché un domani alla fine ho 3.000 problemi da risolvere e magari non ne esco. Allora anche qui ci vuole un bel faro, sì, no? Su tutto il percorso che conduce dalla proposta della compagnia assicurativa fino all'atto della firma, perché non è... Guardi, io sono dell'avviso che le assicurazioni in Italia dovrebbero essere tutto compreso. Ti chiedo 1.000 euro all'anno, sei coperto in tutto e per, certo, tutto. Se deve costare meno, mi dici che cosa mi togli, così io capisco bene, certo, che cosa mi tolgo. Colla, guardi, lascio stare questa parte perché dovrei andare a fare la borsa adesso, però rubo al prossimo blocco ancora un minutino o due, perché le faccio sentire un ascoltatore che è intervenuto e ci terrei appunto a ascoltare la sua testimonianza e la sua richiesta d'aiuto. Marco da Crema, veloce, grazie, buongiorno, buon anno. Buongiorno a voi, buon anno anche a voi, cercherò di essere velocissimo. Grazie. Praticamente ho avuto mia madre ricoverata presso una SRA fino a pochi mesi fa, vabbè, poi è deceduta per Alzheimer, e visto che mi sono dovuto sobbarcare tutto, essendo oltretutto figlio unico, tutto il discorso economico che, come avete detto appunto, certo, non è irrilevante. Per non parlare del carico emotivo che immagino sia stato... Esatto, tralasciamo questo enorme, dettaglio. Enorme, ecco. Lo posso capire, Marco, sì. E niente, volevo sapere, in funzione di questa sentenza della Cassazione che ho appreso, che non da è voi peraltro recentissima onora, però, certo, però magari la documentiamo, Marco, se lei può provare ad avere qualche rimborso per i costi sostenuti in termini pregressi. Grazie Marco. Mara Colla, adesso non vorrei lanciare questo messaggio, questa signora purtroppo per Marco non c'è più, però si è sobbarcato di costi insopportabili, alla luce non di quanto dubbio ha sancito la Cassazione, secondo lei può tentare questa battaglia, sì, Marco? Può, sì, tentare questa battaglia, assolutamente sì. Ottimo. Certo. Marco, noi proviamo, certo, anche a darle i riferimenti di Confconsumatori, che in prima linea su questo ha dei legali, soprattutto l'avvocato Giovanni Franchi, so che è molto impegnato, lo conosciamo molto bene perché ci ha aiutato nei casi di risparmio tradito. Vi mettiamo in contatto, presidente Colla, allora, così almeno proviamo a valutare il caso di Marco. Benissimo. Presidente, grazie per essere stata con noi. Non abbiamo completato, ma ci ritorneremo su questi argomenti, magari un po' prima del 2 gennaio dell'anno prossimo, che ne dice? Volentieri, sì. Esatto. Ci faccia sapere anche sull'iniziativa per i ragazzi e sì, l'uso consapevole del denaro più che educazione finanziaria, esatto, come esatto, cosa esatto. farete di concreto, appunto. Di più, sì. Grazie molte allora. Anzi, buon a anno, presto. Sì, a presto. Buon lavoro, grazie a Maracol, presidente di Confconsumatori. Adesso abbiamo la borsa, poi ritorniamo sullo shopping e lo stato emotivo e parleremo anche un po' naturalmente nello spirito di Cuore Denari. Adesso andiamo sui temi di cuore e più che altro dei polmoni, perché qua con questo bel tempo che c'è stato in questi giorni in tutta Italia e però insomma l'inquinamento l'ha fatta da padrone. Allora a che punto siamo in questo inizio del 2017? Tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Beh, Milano in questi giorni non c'è che dire, c'è un'aria decisamente frizzantina, le temperature si stanno progressivamente abbassando, devo dire portando anche qualche bel malanno di stagione a molti colleghi, non solo alla sottoscritta. A proposito di aria, noi non vogliamo perdere le buone abitudini che ci hanno contrassegnato nel 2016 e ci colleghiamo con il dottor Mauro Mocci, medico dell'ambiente, che ci dà il polso della situazione. Buongiorno, bentornato e buon anno, dottor Mocci. Buongiorno, buon anno a tutti qua. Voi e tutti gli ascoltatori. Senta, prima di partire col monitoraggio della qualità dell'aria, le faccio sentire un attimo una cosa. Buon compleanno, dottor Mocci. Grazie, che sorpresa. Visto che ha deciso di festeggiarlo con noi, mi sembrava il minimo sindacale. Oggi no? È il mio compleanno, grazie. Purtroppo non è qua, se no avremmo anche portato una torta, naturalmente con lo spumante, ci pare carino. Grazie. Allora, abbiamo parlato di saldi fino a poco fa, dottor Mocci. L'inquinamento ha fatto qualche sconto in qualche città oppure questo bel ancora. Tempo? No, Non ancora, perché il freddo purtroppo non abbassa i livelli di inquinamento. Gli unici elementi che possono disperdere un po' gli inquinanti sono la pioggia, la neve e il vento, ma il freddo no. E quindi abbiamo una situazione ancora purtroppo bruttina, soprattutto nella parte nord, diciamo la Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, abbiamo dei valori di particolato, di PM10 molto molto elevati, che superano i 100 microgrammi per normal metro cubo. Quindi è una situazione bruttina. Speriamo nei prossimi giorni, nelle precipitazioni, come è previsto, che portino un po' di aria un po' meno inquinata. Ma quanto deve piovere per migliorare in maniera sensibile la qualità dell'aria? Qualche nevicata sarebbe meglio, perché l'abbattimento delle polveri con la neve si è visto che è maggiore. Peccato che poi la neve lì è tutta nera, tutta brutta, perché si porta dietro. Certo, per i primi. Ma è comunque solo una dispersione, non è una scomparsa degli inquinanti, ovviamente, è soltanto una pulita temporanea. Però i provvedimenti devono essere altri. Infatti, allora, guardi, a proposito di questo, la faccio commentare subito questa notizia. Sa cosa ha fatto il Comune di Milano? C'è un provvedimento varato proprio da pochissimo dalla Giunta del Comune con l'obiettivo di ridurre non solo il traffico in centro, ma anche l'inquinamento. Cosa ha fatto? Naturalmente batte sul portafoglio. Aumento delle tariffe per le strisce blu e introduzione di un abbonamento integrato sosta e mezzi pubblici a prezzi vantaggiosi. Sono queste le strade da prendere, dottor Mocci? Sì, lei è un medico, però... Ho letto, noi ci occupiamo anche di questo, ho letto questa notizia, ovviamente vanno bene tutte le iniziative, però questi tipi di provvedimenti cosiddetti economici che fanno cassa, si è visto che sono dimostrati sempre poco efficaci. Anche perché tra l'altro non entrano neanche in vigore subito, ma nei prossimi mesi, leggo adesso. Sì, guardi, ma poi sono delle cose che colpiscono all'inizio, poi la gente si abitua quasi, è disposta a pagare di più. Provvedimenti più seri ho visto presi in altre città, allora non si parla di 2 euro, ma si parla di 100 euro se si volesse entrare in un'area, per esempio a Londra, nell'area a bassa emissione, 100 euro al giorno, e non con mezzi di euro 3, euro 4, cioè si comincia a fare una selezione sulla qualità delle emissioni, non tanto sul prezzo, perché non sono così efficaci. Però ben vengano tutte le iniziative, proviamo, vediamo, meglio forse sarebbe implementare ancora di più il trasporto pubblico e facilitarlo, ecco, questo è ma il trasporto pubblico ovviamente è alimentato, come sempre ripeto, con energie rinnovabili e se possibile autobus elettrici o quantomeno a gas. Le racconto cosa hanno deciso di fare a Madrid, perché abbiamo trovato anche questa notizia curiosa questa mattina nella nostra rassegna stampa. Secondo il sito News de Local, ripreso peraltro anche dai media di tutta Europa, evidentemente è stato un esempio che piace, per combattere le emissioni di anidride carbonica, la città di Madrid sta progettando di allestire giardini sui tetti degli autobus e delle fermate degli autobus. Un giardino mobile costerebbe circa 2.500 euro, quindi non è neanche una spesa insostenibile. Sulle pensiline questo costo dovrebbe essere inferiore. Un progetto pilota in realtà è già stato lanciato su due linee della capitale spagnola, quindi se siete in procinto di andare a Madrid e notate qualche lavoro in corso, poi raccontatecelo. Utilizzate da almeno 17 milioni di persone l'anno scorso. Che ne pensa di questo? No, beh, carino, educativo probabilmente, ma io adotterei la trasformazione di autobus ad autobus elettrici piuttosto che fare giardini sopra. Però anche questa iniziativa, dall'idea di quanto sia importante l'inquinamento, se si arriva a fare questo significa che è sentito il problema, perché altrimenti non si farebbe. Ma il problema è sentito, perché è un problema serio. Il problema dell'inquinamento, soprattutto nelle grandi città, è un problema che porta malattie, porta... infatti, porta evidentemente disagio, dagli ospedali stanno segnalando qualche tendenza. Assolutamente, forte. Noi abbiamo ormai da anni, la letteratura scientifica mondiale ci dimostra che con l'aumentare dell'inquinamento aumentano una serie di patologie, aumentano i ricorsi al pronto soccorso, aumentano gli infarti, aumentano gli ictus nella fase acuta e nel lungo termine le bronchiti croniche, i tumori. Quindi è un problema rilevante. Dobbiamo trovare delle soluzioni, e le soluzioni piano piano si stanno cercando. Anche questa ben venga, carina, tipica proprio spagnola, loro osano in tutto, e quindi questa è carina. Dottor Mocci, io la ringrazio per essere stato con noi. Qualche altro messaggio di inizio anno da lanciare ai nostri ascoltatori? Lavare le strade per eliminare le polveri, ci segnala un ascoltatore. Sì, ma non basta quello, perché poi dobbiamo utilizzare energia per l'acqua e quindi inquiniamo tutto... per produrre energia con fonti rinnovabili. Adesso in questi giorni di acquisti, di saldi, cerchiamo di lasciare la macchina, prendere mezzi pubblici o camminare, andiamo a fare spese, ma facciamolo in se modo... Se ci pesano le borse le portiamo in braccio, non c'è bisogno di metterle subito in macchina. Consumiamo un po' di energia, la nostra energia, ci fa bene per smaltire tutto quello che abbiamo accumulato in questi giorni di forse eccessiva alimentazione. Esatto. Grazie dottor Mocci per l'assist e anche al tema che affronterò tra poco. Buon anno, buon compleanno naturalmente. Grazie, e immagino che ci sentiremo con lei ancora nei prossimi giorni. Intanto, a presto. Per una volta tanto non abbiamo preso il brano del film al quale facciamo ricorso tutte le volte che tocchiamo questo argomento. Questa è invece proprio la colonna sonora del film I Love Shopping, un film uscito qualche anno fa nel 2009 ispirato ai romanzi I Love Shopping in New York, ma insomma poi la serie è lunga, di Sophie Kinsella. È un film che racconta le gesta, se così possiamo definirle, della pure una giornalista finanziaria peraltro, Rebecca Bloomwood. La sua ossessione nei confronti dello shopping non è invece sì, così professionalmente parlando, sia proprio una giornalista finanziaria che dà suggerimenti su come gestire al meglio il denaro. Veramente un paradosso, e un po' ne sono colpita anch'io, perché non è che non ami fare shopping, attenzione. È una situazione sicuramente limite quella di Rebecca, ma è un film che casca a pennello per affrontare il tema di oggi. Saldi, lo dicevamo prima, stanno per partire, sarà il tempo di acquistare quel capo che abbiamo adocchiato prima di Natale ma che non abbiamo appunto comprato perché era un po' troppo costoso. Sarà anche l'occasione per rinnovare il nostro guardaroba, d'altronde abbiamo bisogno anche di quello per tirarci su il morale e gratificarci un po'. È bello perdersi, lasciarsi ammagliare dalle proposte che ci fanno l'occhiolino, prezzi ribassati, super offerti e affaroni, e questa è la magia dello shopping. È difficile resistere, si esce per dare un'occhiata e si torna a casa con qualche cosa che non sempre è utile, qualche volta è anche inutile e non siamo neanche tanto convinti di quello che abbiamo comprato, ma alla fine insomma l'abbiamo portato a casa. Vuoi mettere allora l'effetto psicologico di tutta questa magia dei saldi? Ne parliamo oggi con il dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ed è una professionalità che sa la sua, dottor Aquila, perché lei ha scritto proprio un libro, Le donne dall'A alla Z, pubblicato per le edizioni Franco Angeli, in cui parla anche del tema dell'acquisto di vestiti e accessori come regolatori dell'umore. Certo, perché i vestiti e gli accessori per molte persone sono dei segnalatori di se stesse. E quindi in qualche modo vengono utilizzati, a volte a proposito, altre volte purtroppo a sproposito. Nel tentativo di regolare l'umore. Ecco qua. Allora, raccontateci un po', se il saldo in qualche maniera mettere le mani su quell'oggetto, quel capo d'abbigliamento che avete tanto desiderato, vi fa cambiare proprio l'umore o alla fine, insomma, una volta che avete accontentato la vostra voglia di shopping, in realtà non cambia niente nel vostro umore, tornate a casa esattamente come eravate prima. 800 24 0024 per intervenire in questa ultima parte della nostra trasmissione, la prima trasmissione, la prima Cuore e Denari del 2017. Adesso c'è il traffico e poi andiamo subito a commentare tutto questo con il dottor Aquila. Tra pochissimo. Cuore e denari. L'impatto emotivo dei saldi, allora che effetto ha su di voi l'acquisto o quello d'impulso o quello fatto, naturalmente magari un po' più ragionato proprio perché cogliamo l'occasione di fare questo piccolo investimento in un momento economicamente un po' più favorevole quando partono appunto gli sconti. Con noi il dottor Francesco Aquilar, ve l'ho già presentato prima ma è un grande amico di Cuore e Denari, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale ed anche autore del libro Le donne dall'A alla Z, pubblicato per le edizioni Franco Angeli, dove tratta il tema dell'acquisto di vestiti e accessori come regolatori dell'umore. Ma perché lo shopping ci piace così tanto, dottore? Che in qualche modo promette di essere qualcosa che cambia lo stato mentale, che cambia lo stato mentale negativo. Noi dobbiamo distinguere tra shopping distensivo e shopping compulsivo. Lo shopping distensivo è molto interessante perché consente di andare a passeggio con un'amica o qualche volta anche con il proprio partner e staccare. Ecco, qualche con volta, possibilmente non portiamocelo dietro perché è limitante poi nelle nostre scelte. Chiusa parentesi, questo è un commento mio, così in libertà. Dottore, alcuni sono limitanti, altri sono incoraggianti. Già. Negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo da parte degli uomini in questa direzione. Perché comprano pure loro, sono molto gratificati dallo shopping, giusto? Infatti non solo comprano pure loro ma anche possono partecipare a quel processo mentale delle loro compagne in maniera più diretta, più condividendo le emozioni. E quindi l'idea è dello shopping distensivo di poter andare in giro con un'amica, con il partner, con una persona cara e staccare con l'attenzione dalle preoccupazioni del quotidiano, in qualche modo rinnovando l'immagine di sé e avendo anche l'occasione di parlare di emozioni, di parlare di sensazioni, di parlare delle proprie cose dell'ultimo tempo. E questa è una parte molto positiva dello shopping, quella distensiva. In altri casi invece diventa una compulsione, un obbligo, una necessità, una limitazione e in questo caso è fonte di frustrazione e di malessere dopo. Infatti, quindi in questo caso non è un regolatore emotivo, lo è solo nel primo caso, quando lo shopping è distensivo. Nel secondo caso è il tentativo fallace di regolare con un'astuzia uno stato d'animo che invece richiederebbe dei cambiamenti più profondi nella persona. E quindi insomma con lei intanto è tramontato questo pregiudizio o questo luogo comune del fatto che gli uomini sembrino così maledettamente allergici allo shopping. Ci sono però atteggiamenti diversi rispetto al momento del saldo tentatore tra un uomo e una donna, dottor Aquilar? Diciamo che rispetto al saldo tentatore no, è la stessa cosa. Il problema è che mentre le donne ne parlano più facilmente, gli uomini tendono a essere più discreti rispetto a questo, perché sembra poco da bon ton fare la parte di quelli che possono smaniare per una giacca o per una camicia nuova. Ma nel caso invece dell'esclusione del partner, qualche volta c'è questo stato mentale quando vanno a fare spese con le loro compagne. Si sentono esclusi perché la propria donna rimane completamente folgorata dalla vetrina e hanno la sensazione che si dimentichi di loro. Le faccio fare subito qualche commento, alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Valeria scrive: purtroppo mi sento sempre in colpa quando spendo soldi per queste cose futili. Allora il tema è magari, dottor Aquilar, fare proprio così, magari una lista delle cose che si potrebbero comprare quando partono gli sconti. Diamo subito la priorità a quello che ci serve davvero. Certamente, e poi prendiamo un piccolo spazio per una cosa futile. Non c'è niente di più utile delle cose futili in alcune situazioni, a condizioni che siano piccole e divertenti. Perché anche questo aiuta a cambiare davvero lo stato mentale. Ecco, e quindi Valeria, insomma, ogni tanto una cosetta futile se la compri, e soprattutto lavoriamo sul senso di colpa, che già veramente ci soffoca in ogni momento della giornata per tanti motivi, ci manca pure se ci facciamo un piccolo regalo, se ce lo dobbiamo portare sempre dietro questo avvoltoio. E certo, ce la possiamo godere. Infatti, dottor Aquila, invece ci sono quelle persone che magari aspettano il momento dello sconto, il momento dei saldi, proprio per potersi fare questo regalo. Dopodiché, davanti alle tante offerte che trova sul mercato, in realtà comincia ad andare in confusione, fa addirittura fatica a riconoscere quelle più vantaggiose. C'è proprio chi si perde di fronte all'offerta ricca ed allettante, ma anche questa è un po' una sindrome problematica, e si torna a casa qualche volta addirittura con col sacchetto vuoto, no? C'è la sindrome del sacchetto vuoto. Nicoletta mi ha lasciato questo appunto, è davvero così? E certo, c'è la sindrome del sacchetto vuoto e c'è il malumore di ritorno, perché il tentativo di rinnovare lo stato mentale attraverso l'acquisto di nuovi capi di abbigliamento è stato in questo caso fallimentare. Ma c'è anche il lato positivo, perché così possiamo farci un'altra passeggiata e un'altra volta riprovare lo stesso tentativo. Naturalmente si deve riflettere sul fatto che non sempre basta lo shopping per diventare come si vorrebbe, e queste persone del sacchetto vuoto vorrebbero un miracolo che non è possibile fare. Come lo vorrebbe quello che torna a casa con il maledetto ripensamento, con la sensazione di aver acquistato qualcosa di inutile. E non è raro il caso, noi prima lo affrontavamo questo con i commercianti, questo tema, ma il caso di chi si scopre come dire, non contento rispetto all'acquisto fatto, e qualche volta non può neanche tornare indietro perché magari l'ha fatto l'acquisto in chi non vuole il reso. La sindrome del chi me l'ha fatto fare, scopriamo anche questa stamattina, dottor. E certamente, perché quelli invece che tendono a pentirsi in realtà spesso hanno una scarsa capacità immaginativa, cioè non riescono a immaginarsi nel poco tempo dedicato allo shopping come davvero si sentirebbero in quei panni o in quei vestiti. E in altri casi c'è una mancata resistenza ai commessi. Di fronte all'insistenza del commesso, alcune persone si smarriscono e vengono prese dall'acquisto incauto. Addirittura anche il senso di colpa nei confronti del commesso, questa pure oggi è nuova, eppure è una cosa nuova dei tempi moderni, evidentemente, dottor Aquilar. Sì, è una cosa nuova e bisogna perdonarsi. Anche in questo, quelli che tendono a pentirsi troppo in realtà non escono dalla loro sindrome del pentimento, perché si condannano esageratamente. Perdoniamoci, siamo esseri umani, possiamo aver fatto un errore, non importa, al prossimo saldo compreremo una cosa più adatta. Allora, le faccio sentire invece la curiosa osservazione che vuole farci all'800 24 00 24 l'amica Lucia da Roma, alla quale auguro naturalmente un buon anno se sceglie di passare questo inizio 2017 con noi. Lucia, lei... insomma, una persona veramente molto intelligente. Benvenuta, grazie. Buongiorno, mi sentite? Lucia. Ah, sentiamo benissimo. Auguri, allora contraccambio gli auguri a tutti. Grazie, Lucia. Volevo sottoporre il mio caso, perché è un caso che mi incuriosisce me stessa. Il fatto di tentare di acquistare in saldo, ma spesso cerco di placare un po' questi desideri di cambiamento della mia immagine, facendo anche degli acquisti dell'usato nei mercati, e sapendo da subito che per una grande percentuale saranno tutti capi che non andranno bene. Però siccome costano pochissimo, mi sembra comunque di avere questa opportunità di fare una prova con un capo che non avrei mai acquistato a prezzo pieno. Guardi che l'usato oggi ha una grandissima dignità, tanto che c'è tutto il mondo del vintage, Lucia, per cui lei in realtà è una donna che dal punto di vista, come dire, dell'atteggiamento verso il commercio è una donna di grande spesso. Sì, guardi come l'ho girata. Tendo poi a portare a casa in quantità esagerata. Esatto. Vedo anche dei capi che hanno un certo valore, perché la qualità spesso è più alta di quello che si presenta sul mercato oggi. A parità, una maglia che costa 30 euro in un negozio, un vintage che è costato pochissimi euro, magari ha una qualità più alta. Però poi non mi riconosco in questo stile, e fatico anche a buttarlo, questo è certo. Il grave, per cui in casa convivono capi usati, capi magari di alta anche moda, perché riesco a comprare qualche capo a saldo di alta moda. Però stanno lì, non li indossa, insomma fa un po' l'accumulatrice seriale di questi anni. Esatto, perché ogni tanto devo caricare delle valigie senza... e buttare tutto, e non capisco se questo atteggiamento è un atteggiamento che va, diciamo così, comunque coltivato o combattuto, o sul quale essere un po' tollerante. Lucia, evidentemente la sua debolezza, dottor Aquilar, che cosa diciamo? Certo, Lucia, che cosa? Certo, è un atteggiamento, Lucia, che va modulato. Ecco. Da un lato lo scopo è la prevenzione del pentimento. Poiché tendo a pentirmi, compro una cosa che costa di meno perché è usata, così mi pentirò in maniera più piccola. Ma dall'altro lato poi si finisce con l'accumulare delle cose che non servono. A una mia paziente che aveva lo stesso problema, io suggerii di indossare questi vestiti a carnevale. Quindi in modo intanto tale non li deve regalare, da prendere le distanze da questo processo. Dopo averlo usato per due carnevali di seguito, non ebbe più questa compulsione. Dottor Aquila, insomma, qua si aprono mille parentesi. Oggi abbiamo anche un altro, e per qualcuno lo è, diavolo tentatore, che è quello del commercio online, perché addirittura ci permette di neanche muoverci di casa, neanche alzarci dalla sedia, ma di accontentare ogni nostro più recondito desiderio. Basta un click. In questo caso, come tenere sotto controllo un atteggiamento che può essere incontrollabile? Qui dobbiamo stare attenti, perché anche questa può essere un'azione pericolosa, simile per certi aspetti al gioco compulsivo, perché si fa da casa per allontanare apparentemente in fretta emozioni negative e uno stato mentale che a volte era di rabbia, vuoto o noia. Mm-hmm. Quindi dobbiamo stare ancora più attenti allo shopping online, che è pericolosissimo, e dobbiamo anche ricordarci che la noia è la madre della creatività. Quindi in qualche modo, se noi quando siamo annoiati, anziché comprare online, creiamo qualcosa, da un piatto di cucina a un nuovo modo di mettere insieme i vestiti che abbiamo, questo ridurrà il rischio dello shopping compulsivo online, che è molto più pericoloso perché non hai il lato sociale di parlare con la sorella, il compagno, l'amica, non hai il lato interpersonale che è quello che rende distensivo lo shopping. Chiarissimo. Dottor Aquilar, io devo salutarla, ma magari in 20 secondi ce la fa a darci quel segnale che ci può far capire che da shopping compulsivo stiamo cadendo in una sorta di dipendenza da shopping? Il problema è sempre quello di dare la precedenza alle relazioni interpersonali. Mm. Quindi non facciamo, se possibile, shopping da soli e dedichiamo tempo a prenderci un caffè insieme, seduti in un bel posto, perché l'aspetto interpersonale è più importante di quello della modificazione dell'immagine temporale. Ed ecco perché noi la invitiamo sempre, perché lei ci dà sempre questo suggerimento che fa molto bene al nostro cuore. Dottor Aquilar, grazie, buon anno, a presto. Grazie a voi. Grazie a Marco Lombardo, a Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica di oggi. Io torno domani, ma torno anche stasera a Focus Economia alle 17. Buona giornata a tutti.